io voglio la grana bro. Voglio il mio money mo, più che stare mani alle mani aspettando un carico. Avere pieni taschini di foglie in filigrana. Prima mi crisi, mo svisi perché c'ho il cash puttana. E mo ti prendi sto cazzo e te ne torni a casa. Ti lascio mezzo grammo in mano, fottuta drogata. Perché un uomo con i soldi è un superman. Porta in giro la sua donna Porsche Cayenne. Fuma spray, beve drink al Grand Hotel. La vita gira fortunata come la roulette. Mi compro tutto il rispetto, l'odio e l'amore. La droga, il sesso, il sorriso, ogni malumore. La tua casa, la tua vita, ogni tua passione. La tua storia, ogni tuo vizio ed ogni emozione. E fin da piccolo mi han detto che la lezione è che la grana non migliora le persone. Invece i miei vanno avanti a pensione. E Dio già pensa a guadagnarmi un posto al sole. Mamani, mamani, mamani, mamani, mamani. Se il mio peso dichiara no no. Voglio mani. E chi come me, come alza le mani. Mamani, mamani, mamani, mamani, mamani. Se il mio peso dichiara no no. Voglio mani. E chi come me, come alza le mani. Lirica al ping ping, vuole la street. E si crede che da lì si fa 13. Io Gucci, ho cambiato modo di muovermi. E così viene difficile per fottermi. Io vi smazzo, ci di allucinogeni e guardami. Io lo faccio per due spiccioli e tu ti smerdi se cerchi miracoli. Ma ne vale la pena fare i ridicoli. Oh, io vedo chi sgobba e chi suda. Chi si crede coglione e chi ruba. E se sei tra quelli in paranoia. Se sei come me allora se lo fuma. Ma poi il problema rimane. Settimane su settimane ti senti male. Non ti rimane una lira. E speri che qualcuno combira. Quante sere che non paghi e ti caghi. Quante volte te le sei scampate. E c'è lo stronzo che gratta, gratta e vince. Fa soldi a palate. Mamani, mamani, mamani, mamani, mo. Sogno questo dichiara no no. Voglio i mani. E chi come me, come alza le mani. Mamani, mamani, mamani, mamani, mo. Sogno questo dichiara no no. Voglio i mani. E chi come me, come alza le mani. Ho conosciuto chi si vergogna se i soldi. Chi si sputtana gli infogni. Chi sogna i tuoi soldi eppure chi si è comprato i tuoi sogni. Ci sono cose che non fai con la Mastercard. Io comunque me la prendo la Cadillac. Villettina tranquilla, Miami Beach. E procedono sul collo come un VIP. Te lo immagini che uno come noi stappa cristalli e riempie i tuoi calici. Tassi alcolici fuori dei canoni. Cannoni in mano accesi a palla coi dollari. Se sto in crisi di chi è la colpa? Io sono un fallito ma è la tua la colpa. Vuoi uno straccio di lavoro e ti ritrovi in corsa insieme a mille disperati per fare il manorba. E sai, ne ho visto tanti salire, salire in alto e poi vedevo il fumo uscire come la punta di un joint. Mamani, mamani, mamani, mamani, mo. Sogno questo dichiara no no. Voglio i mani. E chi come me, come alza le mani. Mamani, mamani, mamani, mamani, mo. Sogno questo dichiara no no. Voglio i mani. E chi come me, come